Blue Time Live. Live. Popolo di Blu Radio Veneto, buonasera a tutti. Siete capitati giusto all'interno di Blue Time Live. Una serata dedicata quindi alla musica acustica, live, per presentare sempre artisti nuovi, sempre artisti bravi, che noi, di cui noi riusciamo ad entrare in contatto, però non riusciamo a tenerli solo per noi, vogliamo fare ascoltare anche ai nostri ben amati ascoltatori. Allora, buonasera da parte di Flavio Bilato e assieme a me c'è Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, questa sera chi abbiamo, Maurizio? Direttamente dal Trentino. Anche se logisticamente ora bolognese. Anche se logisticamente passata da Bologna, abbiamo con noi Maria De Vigili. Buonasera Maria. Buonasera. Ciao Flavio, ciao Maurizio. Ciao Maria. Allora, tutto bene? Fatto buon viaggio? Buon viaggio, siamo arrivati, abbiamo trovato Padova freddina. Sì. Di temperatura, dico. Beh, vabbè, tu sei abituata alle temperature, visto che... A Bologna è un po' più caldo. A Bologna è un po' più caldo, però a Pergine o da quelle Trentino. Parti, nel Trentino, siamo così. Ci stiamo abituando, man mano sali verso le tue belle montagne. Benissimo, allora, tu hai detto la parola siamo, quindi vuol dire che non sei da sola, esatto. Non sei sola con la tua chitarra. Ad accompagnarti c'è anche Stefano Orzes. Buonasera Stefano. Buonasera a tutti. Stefano Orzes, che è coproduttore del tuo disco, di quello che presenteremo questa sera, e non solo, perché in questa serata suonerà le percussioni, quindi con tanto di djembe e con tanto di glockenspiel, per dedicarci alcuni momenti acustici con chitarra, appunto, percussioni e soprattutto la voce. Un disco davvero particolare, si intitola Motori e introspezioni, e, andando proprio in quello che è l'argomentazione del disco, scopriremo che non stiamo parlando di motori di automobili, ci sono ben altri motori, come ci insegna la Maria. Ad esempio quali? La rabbia, le pulsioni emotive. Sì. Tutte le reazioni che non controlliamo e ci rendono anche poco liberi, perché siamo... viviamo in preda, in balia di queste emozioni. Sono dei motori, cioè, ci fanno assomigliare alle macchine, quali siamo in fondo. E motore è questo, insomma, anche positivo. Ad esempio, se succede qualcosa, che devi scappare, viene un terremoto, il motore ti fa scappare, sbagli, devi stare fermo, dicono. E vedi, questo è anche importante. Sì. Però ci sono delle reazioni fisiologiche che ti fanno sopravvivere. Certo. E penso la rabbia soprattutto. Ci sono queste reazioni che, insomma... Quindi il motore non è educabile, perché va di istinto in questo caso. No, è educabile in realtà. L'introspezione ti fa vedere il motore e tu lo educhi. Quindi, no, è educabile. Quindi non parliamo comunque di meccanici. No, non bisogna reprimerlo. Assolutamente. Non bisogna reprimerlo. Sì. Però educarlo, prenderlo per mano, sì. Allora, Motori e introspezioni è un disco che è uscito fresco, datato sì. 2012, anzi ha proprio pochissimi giorni di vita in questo caso. Sì, è uscito il 12 novembre, dico uscito, ma in realtà è solo nei negozi virtuali, e in realtà noi lo vendiamo ai concerti. Sì. Quindi è lì fisicamente, lo spediamo anche quando ce lo richiedono. E si trova su iTunes, Amazon e compagnia bella. Benissimo, allora impariamo a conoscere quella che è la musica di Maria De Vigili con il primo pezzo che ascoltiamo da disco, da Motori e introspezioni. Ci ascoltiamo DNA. Blue Time. Si farà grande, germoglio. città dove la mia terra. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Ancora una buonasera ai nostri ascoltatori, sempre su Blu Radio Veneto all'interno di Blu Time Live. Abbiamo ascoltato il primo pezzo di Maria De Vigili, il suo ultimo album si intitola Motori e Introspezioni. In questo caso ci siamo ascoltati DNA, che non è un puro riferimento cromosomico, ma parla dell'idea come seme nutrito del tempo in un'età, addirittura oserei dire un evo apocalittico, dove la comunicazione viene descritta come un'astronave. Allora, abbiamo la fortuna di avere con noi Maria De Vigili proprio per commentare questo pezzo. DNA, innanzitutto, c'è scritto nella copertina, ma voglio sentirlo da te. La pronuncia corretta di questo DNA. De nostre etatis. Bene, quindi un latinismo perfetto, okay. Che si trova molto spesso in qualche trattato che inizia col de, no? Quindi de rerum, sì. Novarum, piuttosto che de altre cose. Tra l'altro cose. C'è un'enciclica, sì, sì, sì, sì, che sì. È proprio, certo. Simile, nostra etatis senza il de. Sì, sì, sì, che parla anche un po' anche delle tasse governative. Non che, lo so. Comunque sì, ho capito a cosa fai riferimento. Non volevo, è degli anni 60-70, non so neanche di che papa. Ah. Il titolo non ha a che vedere con quella enciclica. Questo pezzo non sapevo come chiamarlo, l'ho chiamato il tempo, il nostro tempo. Non mi piaceva il nostro tempo, non mi piaceva il tempo. E volevo chiamare. Mi è venuto in mente DNA, cioè questa sigla, e ho trovato che corrispondeva a De Nostra Etatis, che è un argomentativo, mi sembra, no? In latino, ho fatto 5 anni di latino, sai, sì. I magistrali si usa spesso, quando facevamo le traduzioni c'era de rerum natura, vabbè, questo sì, è un poema, e è una specie di tematica about, come in inglese sì, about. Sì, sì, sì, sì. Certo. E musicalmente i critici hanno scritto un disco minimale, ma in questo pezzo non mi sembra per niente minimale, ha un sacco di sonorità strane, contorte, sotterranee, ma minimale no. Come mai hai creato queste sonorità, Maria? Perché hai voluto coinvolgere queste sonorità in questo pezzo? D'apertura o d'apertura? Sì, d'apertura praticamente. Le sonorità, diciamo, che riempiono forse in più sono quelle dell'elettronica. Esatto, dell'elettronica. È stata messa dal fonico che ci ha registrato, che è Andrea Sologni. Ti salutiamo. Salutiamo, lui è un musicista dei Gazebo Penguins e di altri progetti, e anche il fonico dei Giardini di Miró, che conosciamo. Le sonorità dei Giardini di Miró possono essere avvicinate probabilmente a queste cose. Allora è merito di Andrea, il Sollo, come si chiama di solito, perché lui ha curato, insomma, ha fatto il mix, e le chitarre tra l'altro la curate molto lui. No, io ho fatto la chitarra, ma i suoni l'ha fatto lui nel disco. E l'elettronica ci ha messo tutto lui. Io non è che gli ho detto niente, praticamente niente. Ma non è un'elettronica invadente, è un'elettronica a misura tua, è quello importante. Esattamente. Sì, sì. Questo è importante, fondamentale. A misura tua, l'elettronica qualche volta è molto invadente, volutamente invadente. Qui non è invadente, non è da contorno, però ti accompagna, possiamo dire questo. Ma Sol è musicista, non è, quindi a gusto ascolta un sacco di musica fin da quando era piccolo. Ho letto di recente proprio che faceva anche il fonico da tantissimi anni, quindi insomma ti sei lasciata trascinare giuntamente, sì, in senso, sì, positivo. Lui a gusto, quindi ha fatto così. È riuscito a cogliere, sì, lo spirito. Esattamente, è riuscito a cogliere lo spirito, come giustamente dice Stefano, è riuscito a cogliere lo spirito del pezzo e lo spirito anche tuo musicalmente, l'approccio musicale tuo. Sì. Allora, ai nostri ascoltatori ricordiamo che siamo in piacevole conversazione con Maria De Vigili, accompagnata da Stefano Orzes, per la presentazione del suo disco molto fresco, che vede anche la coproduzione appunto di Stefano Orzes, Motori e Introspezioni, si intitola, e adesso c'è uno spazio acustico, quindi mano la chitarra, Maria, sì. Le percussioni sono pronte. Perfetto, quindi sì. Possiamo partire. Cosa ci proponi, Maria? L'istante. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Maria De Vigili accompagnata da Stefano Orzes in questo l'istante tratto dall'ultimo lavoro di Maria De Vigili che si intitola Motori e introspezioni. In questo caso abbiamo ascoltato dal vivo questa canzone, si intitola l'istante. L'istante è un invito proprio a riconsiderare un po' se stessi nei mille cambiamenti della vita. In questo caso ci vuole sempre un istante per pensare. Sì, ma è nata proprio un po' molto ispirata, devo dire, questa canzone, ha poco testo, infatti non c'è nessuna ricerca, è proprio immediato, ma nasce proprio dalla considerazione che alla fine la vera vita è quella dell'istante, no? Dell'eterno presente. Quindi in questo caso c'è ancora introspezione, che è la parola che fa parte del titolo del CD, c'è un po' di intimismo e soprattutto c'è l'essenziale, cioè nulla di più. Come diceva De Superi, l'essenziale è invisibile agli occhi. E in effetti i nostri ascoltatori adesso non possono vedere, ma possono immaginare quello che sta succedendo all'interno dei nostri studi radiofonici assieme a Maria De Vigili, assieme a Stefano Orzes. Ascolteremo anche altri pezzi da disco. Quindi mi sembra di capire, Maria, che c'è un lasciare un po' il blues, che forse è stato uno dei tuoi amori, per andare verso un po' l'etno rock, posso chiamarlo così? Certo, verissimo questo. Mi piace moltissima questa definizione, infatti quando a Stefano gliel'ho detto, quando uscirà questo disco lo chiamiamo etno rock. Veramente? Perché uso l'elettrica e non qui, lui usa lo djembé, è un suono particolare. Poi lui non è un percussionista, è un batterista rock e suona lo djembé con un piglio rock. No? Si sente che è rocchettaro, che lo percuote nel vero senso della parola. E quindi anche quello particolare, comunque sì, potrebbe essere questo, insomma, etno rock. In realtà il blues, volevo dire, non è che si è c'è sempre. È una lezione che non si può scordare. Ma tu hai detto che questo pezzo non ha ricerca, però in questo caso specifico, adesso, in questo testuale, momento sì. Stefano l'ha portato, l'ha allargato, la ricerca l'ha molto allargata e giustamente, come diceva Flavio, è arrivato all'etnica, perché alla fine è un finale totalmente etnico questo qua, secondo me, con quelle percussioni che dà Stefano, dà l'impulso e dà un finale assolutamente etnico. Parlavo della parte testuale. Ah, parte testuale, ok, perché musicalmente il finale è questo. È etnico, l'ho fatto post rock, mi hanno detto. Sì, anche quello. Mi piace tantissimo quella, fare le code, c'è anche il paese, infatti che è una coda a parte. Mi piacerebbe fare tutte le canzoni così, con delle code. Perché tu li suoni dal vivo, come fosse, come in studio l'ha registrato, come se facessi una jam session totale. Sì. È proprio l'indice tuo, cioè il modo di suonare che deve essere assolutamente live, sia nello studio, sia nel campo della registrazione, sia nel suonare dal vivo. Non c'è differenza praticamente. No, in questo caso oggi questo pezzo è acustico. Stefano ha un set più ampio qui, perché bisogna dire che ha un set veramente particolare. Stasera ha portato uno minimo, lo djembé. Lo djembé basta. E il glockenspiel anche vero. Anche è ancora chiuso, poi lo sentiremo. È un new entry. Dopo, usa un set di percussioni che ci siamo un po' pensati, ha pensato lui, perché giravamo in treno fino a qualche tempo fa e doveva stare tutto in un trolley. Ah, ho capito. Tutto è nato. Se vuoi dire tu, Stefano, cosa spostamento. Il tom. Il mio set è composto da uno djembé, un tom al posto della gran cassa, Charleston e un piattino. E puoi dire agli ascoltatori che cos'è lo djembé, che suono dà lo djembé, così a soldoni. Lo djembé è, insomma, quello strumento tipico. Lo sentiamo. Esattamente. Ma dopo descrivilo anche. Riporta un po' all'Africa, infatti è uno strumento africano e quindi ha questo suono molto, molto rotondo, avvolgente, meno spigoloso rispetto a un tamburo o a un rullante. Io infatti lo sostituisco proprio al rullo, lo suono con la mano senza bacchetta e anche la mano rispetto alla bacchetta sul rullo dà un... insomma un suono più avvolgente. Perché più quello strumento, fammi capire Stefano, sarebbe quello che si suona con la bacchetta curva allora anche? Ma questo solitamente si suona solo con le mani. Ah, solo con le mani. Lo suonano solo con le mani. Si vede spesso nelle bancarelle, nei mercati. Nei bancarelle, esatto. Vero, sì, ce l'hanno i propri gli africani, quelli. E quante volte tu passando lì davanti ti alterni con loro, Stefano? Ah, sì. A volte è successo. Così gli aiuti nella vendita, no? del prodotto, perché con te il suono dello djembé, insomma, si sta assume un po'. Sì, sì, si è introdotto anche in un disco come appunto quello della mio della Maria, che è abbastanza inusuale, no? Sì, viene usato soprattutto in contesti a sé stanti, quindi proprio in musica tradizionale, anche nella musica reggae qualche volta, secondo me. Sì, magari sì, accompagnato magari a una batteria, certo, come sì. Può avere questa funzione, certo, sì. Benissimo, allora noi invece come radio abbiamo la funzione di promuovere la musica e quindi promuoviamo ancora un altro pezzo di Maria De Vigili con Iperuranio, sempre tratto da Motori e Introspezioni. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Ci siamo ascoltati questo pezzo di Maria De Vigili, il suo lavoro si intitola Motori e Introspezioni e questo si intitola Iperuranio, dove c'è la storia di una donna refrattaria a guerra, freddo, ogni cosa che inganna il cuore e che allontana dal mondo attuale dove invece tutto questo si vive. Però Iperuranio è anche un concetto espresso da un filosofo qualche tempo fa. Allora, come mai hai preso proprio spunto da Platone per parlare di questo malessere nel mondo in contrapposizione con quello che è l'iperuranio di Platone, che invece è il luogo, perdonami se sbaglio, però no, non ho fatto grandi studi, è il luogo dove le idee sono idee prime, nel senso idee assolute. È come una specie di paradiso per noi religiosi, cristiani, sì. Lui era pagano, si dice, e, dove diciamo è tutto, la verità è cristallina. E, su questo mondo in realtà tutto è una copia della vera idea, della verità, tutto. E anzi poi la fotografia, la poesia, ancora una copia della copia. Cioè, quindi è ancora più degradante, l'arte è una degradazione dell'essere. Comunque, a parte questo, è nato veramente perché stavo suonando al freddo a Bologna quando ha fatto la nevicata a febbraio e non sentivo freddo, è vero, e capita alle volte di non sentire freddo quando stai in uno stato in cui non percepisci tanto i sensi. Si chiama catalessi in alcuni casi. No, a suonare ti scaldi, sì, devo dire. Sì. Maria, era aperto, eri fuori? No, ero in casa. Eri in casa, però fa freschino. Fa freschino, va bene. E quindi è nato da lì e il pensiero anche della crisi, si parla da 3-4 anni, c'è crisi economica, di tutto. Abbiamo sentito Monti che ha parlato che stiamo uscendo dal tunnel, o perlomeno l'ha detto in Comunità Europea, chissà se è vero. L'ha detto anche Caparezza un po' prima di Monti. È vero. Però lui usciva dal tunnel del divertimento. Esattamente. Qua ci sono ben altri tunnel. Mi piaceva l'idea della trascendenza che può dare la musica, l'arte, ossia slanciarci verso un alto, che non è l'alto come il paradiso dei cristiani, che è in alto, ma un alto che è altro. E quindi un mondo dove queste crisi non esistono, perché in effetti non esistono, cioè finito il mondo, finito il tempo, non esistono, il tunnel non esiste in realtà, siamo tutti... sono crisi passeggere in fondo, non siamo così importanti nell'universo, non ci siamo solo noi, ecco. E quindi era una canzone, sì, si rifà proprio a Platone, che amo moltissimo come filosofo, perché era un filosofo critico nell'esistente, ma poneva le basi anche, cercava delle basi. Qualcuno diceva che aveva anche un bel fisico, piaceva molto alle donne. Bravo, no? Perché quindi, Platone viene da Plato, che vuol dire quello che ha le spalle grosse. Bene, bene, allora... E agli uomini mi sa che piaceva anche. Ah, vabbè, quindi era un ragazzo che si faceva piacere da tutti, anche per le sue idee, i suoi trattati filosofici che sono arrivati sino ai giorni nostri. Prima o poi, oltre che di musica, Maurizio, dovremmo cominciare anche a parlare un po' di letteratura. Sì, esattamente. A proposito di questo pezzo, mentre si parlava con Maria e con Stefano, del finale quasi ipnotico che si ripeteva continuamente. Sì. Allora io ho citato, che tu sai, Flavio, che io amo particolarmente la psichedelia, allora ho tirato fuori questo discorso e loro sono stati parzialmente d'accordo. Adesso mi dici il perché di questo mantra ipnotico che continuava verso la fine del pezzo, l'idea di farlo. Perché così. Il minimalismo che cerchiamo in fondo conduce lì. Io faccio un accordo, è un bemolle, si bemolle, non lo so cos'è perché non lo so neanche io. È ripetitivo, sì. Stefano fa qualcosa di ripetitivo, è minimalismo che ti porta all'essenza. E poi la psichedelia ci sta perché io ho ascoltato molto Pink Floyd, queste cose qua. Gli anni 70 per me sono magici, anche se sono nata dopo, però l'ho ascoltati molto. non proprio, insomma, Syd Barrett, insomma, quindi qualche collegamento, qualche filo, sì, ti mi ha lega questo, mi ha influenzato come influenzato. Musica negli anni 70, e anche Stefano ha amato molto quel periodo, e quindi secondo me dagli anni 70 è venuta, bisogna attingere, c'è tantissima musica bella proprio. Benissimo. Bene, allora stiamo parlando, ricordiamo ancora i nostri ascoltatori all'interno di Blue Time Live, assieme a Maria De Vigili, assieme a Stefano Orzes, è venuta per presentarci il suo lavoro intitolato Motori e Introspezioni. Maria e Stefano hanno rispettivamente chitarra e percussioni, lo djembe in questo caso, e allora ci ascoltiamo un altro pezzo che poi commenteremo. Come si intitola, Maria? Cadi Blues. Era bella, aveva gli occhi belli, era scura, aveva tanti fratelli, faceva la puttana per campare, come si suol dire, o per non morire di pugni almeno. Scesa la nebbia, una notte di luna quasi piena. Era bella soprattutto prima di partire per quel lungo viaggio verso la libertà, ha, ha, ha, ha. A volte le parole ingannano. Bella anche se la polizia stenta un poco a riconoscerne il volto, dopo che mille coltelli folli ebbero squarciato la sua pelle. L'indomani sui giornali hanno ucciso una prostituta, gli opinionisti discutono di case chiuse, scesa la nebbia. Scesa la nebbia. Soltanto un nome, o meglio un numero, sui giornali. Thank you. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Allora, ci siamo ascoltati questa canzone dal vivo di Maria De Vigilia assieme a Stefano Orzes, dal loro CD si intitola Motori e Introspezioni. Questa è una canzone dedicata a Kedi, una signora nigeriana venuta in Italia per lavorare. Abbiamo capito dalla canzone il tipo di lavoro ed è una delle tante storie che parla di persone dimenticate che arrivano ad essere conosciute solo perché si parla di loro sui giornali, ma quando se ne parla è troppo tardi. Persone che poi molte volte diventano, come dice la canzone di Maria, diventano dei numeri. E siamo qua per ricordare ancora la figura di questa Kedi, Maria. Allora, questa Kedi in realtà è una figura appunto, un nome a caso, in realtà non c'è una corrispettiva reale, ma ce ne sono tante. È nata, io ho fatto questa canzone con un altro nome, un altro soggetto, si chiamava Mohammed Blues. Ho cambiato pochissime parole, parlava di un operaio marocchino, poteva essere, che moriva sul lavoro, che viveva in un nord-est, lavorava nel nord-est, in precisato luogo. Mi sono ispirata a dei racconti un po'. Quando vivevo a Verona mi capitava di vedere situazioni così un po' particolari di immigrati che lavoravano un po' in situazioni poco agevoli, quindi parlava di un'altra persona. Poi ho incontrato un regista, Piero Laino, che mi ha proposto di musicare il suo spettacolo, uno spettacolo incentrato sulla figura di tre donne, fatto da un'attrice però, da sola, che doveva impersonare tre donne, e, un viale da mezzanotte a luna si chiama lo spettacolo, e mi ha chiesto di fare inframmezzare i monologhi con dei pezzi miei, e una personaggio, una donna, era Kedi di questo monologo. E io ho cambiato qualche parola del testo e è stato Piero Laino a darmi lo spunto, ovviamente. Tra le altre cose, nel testo spicca una parola tra le altre, è una parola che metti tra virgolette, però la sollevi anche dal contesto. In questo caso stiamo parlando di campare, che adesso è molto attuale come termine, abbiamo appena citato anche il perché, quindi il bisogno di lavorare per campare, e tu in questo nel disco risalti molto bene anche questa parola, non senza qualche emozione nel dirla. In realtà questa parola in particolar modo l'ho presa, si dice tirare a campare, ma da Luigi Tenco, che in un brano dice: io non sono uno che fa la banderuola per tirare a campare. Non dice questo, ma il succo è questo. Me l'hai fatto venire in mente adesso, perché ho detto: ma perché ho detto così? E quel fraseggio lì è un po' tenchiano. Lui è un grandissimo interprete, no? Beh sì, sappiamo anche che ti piace tanto. Sì, tra l'altro jazzista, no? Sassofonista, sì. Clarinettista. E lui dice proprio per tirare a campare, e lo dice in un modo esaustivo. Perché tu hai detto che sa cantare, sa interpretare, sa scrivere. Ho detto così, sì, è vero. Lo affermo, lo ribadisco. Sì, sì, è una grande, grande ricchezza che sta tornando molto di moda, tra l'altro, mi sembra, negli ultimi anni vedo tanti cantautori, insomma, si ispirano a lui. Sì, non ho incontrati. C'è un ritorno. Sì, ma proprio oltre che molti cantautori si ispirano a lui, c'è anche molta richiesta di questi CD, mentre vengono proposte sempre novità nel campo della musica italiana. vengono rispolverati forse un po' anche per business da parte delle case discografiche, i dischi appunto di Tenco. Ultimamente, ma solamente... poi cantautori a Natale, Gabber, De André. Sì, esattamente. Sono quelli che vanno con i vari cofanetti, si sa, no? Perché poi un CD semplice costa troppo poco a Natale, durante l'anno costa troppo, no? In realtà sempre così. C'è questo, ed è sempre così. Allora, cerchiamo di capire, non abbiamo mai parlato di Maria De Vigili da quando è nata musicalmente, ma sappiamo che hai cominciato quando eri molto piccola e non con la chitarra in questo caso. No, no, il primo strumento non era una chitarra, era una pianola, neanche una tastiera. Una pianola della Bontempi, tanto per, non lo so, per era, fare una marca. Era bianca, grigetta, non so che marca era. Si vedevano all'epoca, anni 80. Sì, sì. Non so, potevo avere 6, 7 o meno. Io mi ricordo che non sapevo scrivere benissimo, però sapevo contare, quindi probabilmente ero scolarizzata, 7 anni. E quindi questa pianola era di mia sorella in realtà, poi me l'hanno detto. Ma la usavo io e suonavo, facevo melodie per ricordarmi l'ordine. Mettevo 2, 7, 8, che contavo la tastiera, tipo 20 tasti. Quindi invece delle note del rigo si faceva con i numeri, beh, una buona soluzione. Poi i bambini adesso con tutte le didattiche veloci che danno, ha proprio formata da numeri e colori. Ho scoperto che è un metodo per far imparare la musica, scoperto dopo, sì. Bene, e tu l'avevi già imparata in quel momento e poi sei passata al tuo grande amore che è la chitarra. Sì, sì, sempre, no, in realtà ho suonato il flauto, perché a casa mia tutti suonavano e io facevo il flauto, facevo i bonghi, le padelle, suonavo i cori. Chitarra anche un po' tardi, perché in realtà a 10 anni, ma già avevo suonicchiato un po'. Chitarra classica di mia sorella, sempre, che giravano degli strumenti. Ah, perché tua sorella era una polistrumentista, anche lei allora. Suonavano la chitarra, suonava classica, anche elettrica. Infatti la prima chitarra che ho preso in mano era elettrica. Era la sua. Avrò avuto 8-9 anni e suonavo in due con mio fratello. Mio fratello suonava normale e io suonavo la paletta. Sì, ok, capito. Questa qua la parte finale, sì. Mi ricordo questa cosa, eravate rocchettari subito allora, proprio giovanissimi praticamente. Sì, ma io veramente avrò avuto pochissimi anni e mi ricordo la Pantera Rosa la facevo con l'elettrica, ma senza amplificatore. Sai farla adesso? Oddio. vediamo, facciamo levare il barré. Facciamo così, ecco, non la rifaccio. Benissimo. Scusate, ma dopo allora, 20 anni... ti abbiamo fatto ripercorrere questi momenti. Comunque, allora, tu eri piccola, c'era già il punk in quel periodo? Ma era già passato, perché 86, io sono dell'80. 70, sì, era già passato. Sì, era passato. I Clash erano già passati, i Talking Heads con 77 avevano già fatto. Ma io ho seguito un po'... Sempre mia sorella aveva 9 anni più di me, quindi i miei fratelli più grandi avevano gli ascolti. Lei tipo è passata da Madonna, 86 così, e metal. Perfetto. Anthrax, Iron Maiden. Perfetto. Io mi sono sparata al metal, mi piacevano gli Iron Maiden, gli AC/DC, tipo quella canzone delle campane infernali. Hell Bells. Madonna, quella mi piaceva tantissimo. E i Guns, vabbè, non è metal, però ho avuto il periodo che mi piacevano i Guns, avevo 8-9 anni, perché eri scatenata con i Guns praticamente. Mia sorella mi dava gli spunti, poi io i Guns mi sono affezionata, l'ho portata un po' avanti, perché la voce di Axl è veramente notevole. Certo, sì. E peccato poi che, vabbè, insomma, è finito praticamente un po'. E anche Nirvana nel 90-91. Ecco, hai cominciato con cosa, con Nirvana? Con quale disco di Nirvana? In Utero. In Utero, immediatamente con In Utero. In Utero, perché è uscito penso nel 90. Sì. E, beh, no, Jim Morrison e i Doors prima. Io già lo divoravo il disco Morrison quarta elementare, mi ricordo. Arrivavo a casa. Eri molto evoluta, il quarta elementare. C'è chi segue lo Zecchino d'Oro, tu segui i Doors. Bella della musica che c'era a casa. Poi i bambini, se li metti comunque a scegliere, loro si ascoltano, poi c'erano i cantautori eccetera, però non li sceglievo i cantautori, non è che quando mia sorella andava mettevo sui Doors, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, io non li conoscevo, non sapevo la loro storia, non c'era Wikipedia per fortuna, perché poi andavo a vedere i testi, c'era un altro tipo di ricerca, eri veramente, ti legavi tantissimo anche ai difetti, la puntina che non andava, avevo lo stereo con il vinile, io mi ricordo il disco tipo Roadhouse Blues, mm-hmm. No, è Morrison Hotel, ma sì, la canzone è quella. Plus, sì. E si fermava, sì, in un punto, ce l'ho. Quando la sento mi ricordo che si fermava là. Era rovinato il disco, era un solco praticamente. Sì, o le cassettine, avevo delle cassettine che si mangiavano il nastro dei Pink Floyd. A un certo punto non sentivo mai la canzone perché il nastro veniva fuori. Begli argomenti. Bello, bello. Succedeva un po' in tutte le case, no? Quindi, ma immagino, puntina rotta e... col CD si è perso qualcosa. Sì, sì, sì, sì. Io dai 14 anni in su, ma mi sembravano un'altra roba. È per quello che lo chiamavano mangianastri, non so se l'hanno fatto caso. Ecco, è proprio per quel motivo. Allora, stiamo piacevolmente conversando con Maria De Vigili, con l'uscita del suo lavoro che si intitola Motori e Introspezioni. Adesso un altro pezzo da disco, in questo caso ci ascoltiamo Il Paese e poi torniamo a commentarlo insieme qui all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto, assieme a Flavio Bilato, Maurizio Calzavara, Anna De Vigili, Stefano Orzes con noi alle percussioni e niente, ancora musica. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live! Uguali e non sorridevano. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Abbiamo ascoltato il rock di Maria De Vigili, Motori Introspezioni è il titolo di questo album che stiamo presentando e la canzone si intitola Il Paese, un paese che pian pianino dalla descrizione che ne fa Maria si sta sfaldando, la gente non è più la stessa, c'è una perdita estrema di ideali, forse una visione, un sogno, un incubo in questo caso. Una cosa è certa, che è presente il titolo del tuo LP, Maria. Esatto. In questo caso Motori e Introspezioni, quindi il concetto si svolge appieno all'interno di questa canzone. No, questa canzone l'ho composta all'inizio dello scorso anno, quando ancora non pensavo a questo disco. No? E mi è uscito quella accoppiata Motori e Introspezioni senza il senno di poi, senza pensare poi a cosa potevo voler dire, no? Con quel Motori e Introspezioni. E sì, contiene già il disco, tanto che io quando l'ho fatto, questo Il Paese, ho pensato farò un album con quel titolo, cioè ho avuto una premonizione o una volontà, non lo so. E nel pezzo Motori e Introspezioni vuol dire un po' bisi e fave, no, come si può dire, come dire uno l'opposto dell'altro. Sì, chiaramente l'ho detto come non lo direbbe mai mio papà, nel senso in modo un po' strano, lo ammetto, perché comunque era riferito a dei soggetti anonimi, non si capisce chi, che parlano di questi temi magari in modo molto nozionistico, di tutto e niente. Questo sì, quelli dire. Che si chiamano nerd poi. Bravissimo, no? Alla fine, quello no? Volevo dire, dei nerd. Per farsi vedere, per apparire. L'apparire può essere anche solo intellettuale, non è che uno deve essere rifatto, no? Per il silicone. C'è il silicone mentale, no? Anche. Sì, sì, in questo caso stiamo parlando forse di qualche tronista che chi si intravede in televisione, no? Il riferimento è abbastanza chiaro. Sì, pensavo proprio a un paese, anche il paesetto, che poi è la città alla fine. Il paese degli uomini, così, la società piccola, un po' alla fine tribale, che non si evolve mai, che appunto ha come riferimento, non so, proprio i salotti televisivi. Ma parla per del parlare. Classico di quando lo salagnese lo sa tutto il paese, ecco, proprio queste, sì. questa versione di paese, di città. Musicalmente però non è una musica in contrapposizione, tu hai detto che chiaramente c'è la contrapposizione dal punto di vista della dialettica, ma musicalmente è un pezzo molto abbastanza complesso che si allarga fino alla fine. Com'è la complessità, Stefano annuiva, adesso parliamo anche con Stefano, la complessità di questo, perché hai reso così complesso nel senso positivo del termine, molto pieno, un pezzo pieno, questo voglio dire. Beh, bello, sono contento, perché allora le code, parli della coda che è un po' a parte, mi piacciono tantissimo. Ti piacciono sempre le code? Mi ricordo, non so, nei miei ascolti c'erano forse i Beatles, non so chi, ma facevano delle code che mi piacevano. Perché praticamente, o anche i Van der Graaf, perché praticamente ti danno una portata quasi operistica di una canzone, perché l'uno è l'opposto dell'altro. Sì. Mi piacciono le aperture, non mi piacciono le chiusure nette, anche le sospensioni, questo. Poi non lo so, l'ho fatta da sola, non suonavo ancora con lui, non lo conoscevo, e ho fatto una specie di basso così... No? Sì. Che ci sta un po' da solo. Suonavo con un contrabbassista all'epoca, forse cercavo qualcosa di bassistico e pensavo a lui come bassista. Ho suonato tanto con contrabbassisti, quindi mi hanno un po' influenzato. E la diteggiatura è difficile di questo pezzo, cioè bisogna, insomma, è un complicatino. E dal vivo come lo fai un pezzo simile, visto che è così difficile da fare? Lo faccio con l'elettrica. Con l'elettrica. E che è un po' più facile, perché i tasti sono meno grandi, insomma, il manico non è così largo. E però lo faccio, l'ho sempre fatto. Seduto è anche facile. Cioè le dita è un po' più difficile dagli altri, soprattutto il cambio, sì. Cambio. Questo è un po' difficile, ma questo non è facile. Il tempo è un po' difficile, però insomma dai, c'è un'urgenza, fai qualcosa, ti vuoi mettere in difficoltà. In genere io facevo così, componevo così, facevo delle cose per imparare. Dico facevo perché magari adesso sono più verso le cose easy, non troppo complicate, più tranquille. Però c'è stata un'evoluzione, ma non negativa, è stata un'evoluzione dalle cose difficili a un po' più facili. Sì, volevo un po' mettermi il bastone tra le ruote fino all'anno scorso, 2 anni fa. Cioè, fare delle cose volutamente, anche che dicevo, Madonna, che difficile, mi sì, faccio sì. male alla mano. Tu prima citavi Piselli, no? Quindi tuo papà, no? Sì. In questo caso, allora adesso vediamo di non complicarci la vita e di ritornare easy e busy, come dicevano. Quindi... Allora ci ascoltiamo un altro pezzo in acustico, questa volta è il turno di, facciamo entrare. Si chiama Dentro. Brava. Eccola qua, Dentro, Maria De Vigili con Stefano Orges a Blu Radio Veneto. Io lo riarrangiamo perché con lo jambe cambierà un po' di cose, comincia lui con le spastole di solito, ma lo faccio io. Gettati dentro l'essere che muta e rimane eternamente dipendenti dalle antiche leggi elettromagnetiche. Nonostante il dono della cognizione si fa sentire il senso della separazione, ma come vorrei arrivare dove sei, disintegrare le distanze chilometriche, come vorrei. Come vorrei. Bye. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Ancora con Blu Time Live, ancora Blu Radio Veneto per i vostri ascolti. Abbiamo sentito per versione acustica di Maria De Vigili questa canzone, che è anche inserita all'interno del suo ultimo lavoro, Motori e Introspezioni. Si intitola la canzone Dentro, che ha ancora un po' di filosofia a questo punto, il dentro, la filosofia dell'essere in continuo cambiamento e in continua lotta anche con le forze esterne che governano, quindi anche un po' in forte contrasto con la società. Quindi introspezioni per autocalmarsi alcune volte, Maria. Sì, sì, sì, sì. In realtà le forze di cui parlo, che ci governano, non è, sono delle forze, insomma, che dobbiamo accettare, quindi non c'è proprio una lotta qua dentro, c'è un po' una specie di rinuncia in questo. Mi fa piacere che hai detto filosofia dell'essere, perché c'è un richiamo ad Heidegger. Adesso mi sembra di essere la professoressa. Questo brano si chiama Dentro, ma volevo chiamarlo Dasein, ma diventava veramente pesante, poi un disco improponibile. E Heidegger diceva che noi siamo gettati dentro nell'esistenza, e quindi noi ci troviamo qui dentro, e in realtà dentro il fuori siamo, anche non siamo neanche dentro, e c'è questa gettatezza, e dobbiamo un po' viverci questa gettatezza. Non abbiamo scelto di essere qui, sì, abbiamo scelto, forse secondo Platone sì, dobbiamo arrivare a scegliere veramente di essere qua. Quindi sia una, in realtà è anche romantica come canzone, perché è legata anche a una forma di amore verso l'essere, no? Ci stiamo facendo una cultura anche di filosofia oltre che di musica, vero Maurizio? Decisamente filosofia. Rimaniamo assolutamente in ascolto quando si parlano di queste cose che vanno oltre la nostra percezione musicale. Però lei ha fatto 1, 2, 3, 4 e ha dato la coda, è stata bellissima, quello mi interessa anche. Quello è il discorso delle code che ritornano. Mi piacciono tanto. Ti piacciono tanto, e questa era una coda beatlesiana, assolutamente beatlesiana. Hai visto che ho citato? I Beatles vengono e vanno, come diceva il poeta. I Beatles ci sono sempre, c'è poco da fare. Questa secondo me era beatlesiana. Non ho messo i Beatles. Ma hai messo i Beatles come tuoi punti di riferimento? In realtà ci come sono, mai? Perché non c'è un album specifico. Quell'intervista mi avevano chiesto degli album specifici. Sì. Sono più legata a dei pezzi. Ma in casa tua i Beatles si sentivano? Sì, ma sai cosa? Avevo i medley, avevo delle cassettine, posso capito. Dire registrate. E avevo molto John Lennon più che Beatles, sai che ci sono le scuole. Sì, certo. Quindi io sono legata molto a John più che a Paul. E per niente sei legata a PJ Harvey, assolutamente è sempre stata legata a John. Ma anche Rolling Stones ho letto, anche molto. Rolling Stones. Io no, Rolling Stones no, non sei. Non mi hanno mai preso. Mai preso. Io John Lennon era un grandissimo poeta e filosofo, mi piace molto quello che ha fatto. Poi Yoko Ono, tutte queste cose qua. Da quelle sono venute dopo, sono a parte. John Lennon era John Lennon, Yoko Ono e i fattori di business sono venuti dopo. No, devo dire che Paul McCartney cantava molto bene, magari meglio anche di John. Era più dotato, i suoi blues sono molto belli. Era un mancino, Paul McCartney è un mancino, quindi. Ah sì, è vero, assolutamente un mancino, un basso, un mancino, è una cosa straordinaria. Aveva una voce molto bella, però insomma l'accoppiata loro è inimitabile, fenomenale. E i Beatles, Strawberry Field, di che album è? Perché avevo questa cassetta, Strawberry Field, andavo matta di quella canzone là. Non so di 67, che... quindi Strawberry Field Forever. Adesso vediamo su internet. Scusate questa ignoranza che ho dei dischi, perché io avevo proprio i medley, le cassette registrate di mia sorella, eccetera, con solo i titoli, magari, no? Di vari album. però in realtà... Quindi John Lennon, nei tuoi DNA c'è John Lennon. Ma anche perché comunque Nirvana così, ascoltava Kurt Cobain. Beh, ha sempre sentito John Lennon. Kurt Cobain era un fanatico dei Beatles. Esattamente, quindi, di John Lennon soprattutto. Indirettamente ti arrivano. Certo, certo. Lo sai che anche Ray Charles, sì, l'ho scoperto 2-3 anni fa, l'adoro, cioè per me Ray Charles mi ha aiutato tantissimo perché per entrare nel swing è la base. E i Beatles adoravano Ray Charles, cioè John Lennon lo adorava. Quindi ritorni, cioè in John Lennon c'è Ray Charles, il blues di questi bianchi, Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin. Io li ascoltavo, ma in realtà c'era del blues, ma di seconda mano, no? Poi sono tornata un po' alle origini, però loro mi hanno spinto lì. Non solo da te, tanti altri. Tanti altri. Allora, noi adesso invece spingiamo sul CD player perché ci ascoltiamo un'altra canzone di Maria De Vigili. In questo caso ascoltiamo Sulla Via. Arrivati sulla via che conduce alla nostalgia. Blue Time. Time Live. Blue Time. Live. Abbiamo ascoltato questa canzone, si intitola Sulla via ed è tratta dall'ultimo lavoro di Maria De Vigili, si intitola Motori e introspezioni, e noi in questa puntata di Blue Time Live abbiamo dato ampio ascolto sia in versione acustica sia in versione da disco, quindi molto più rockettara la dimensione musicale di Maria De Vigili. Allora, sulla via, nostalgia e presenze che sono segnate nei testi che vedete all'interno della copertina del CD, per chi vorrà entrarne in possesso naturalmente, poi ripeteremo anche come fare, segnate anche con le iniziali maiuscole, quindi per dare ancora maggior senso alla cosa, e segnalate anche come uniche cose che rimangono sulla via di questa canzone, dove fare delle rivoluzioni indolori è praticamente impossibile. Oppure, Maria, hai una ricetta per fare una rivoluzione indolore? No, era una specie di fotografia del presente, dal mio piccolo. L'ho fatta subito dopo il paese, è legata al paese questa canzone. Lo stesso mood, sarà stato lo stesso mese, tipo gennaio dell'anno scorso. E è una specie di mia analisi della realtà. È una canzone un po' politica come il paese, però non sembra politica, perché sulla via sembra quasi una cosa filosofica. In realtà è un'analisi proprio del, ma non politica, del fatto, appunto, parliamo della musica, anche i giovani guardano molto al passato, no? Praticamente sulla via, in questa canzone, parlo della nostalgia perpetua che c'è del passato, dove nasceva il presente. Quindi noto nella musica spesso questo, un po' mi dà un po' fastidio, che c'è proprio il vintage molto marcato, un ritorno senza magari un'espansione, un'evoluzione. Ad esempio c'è Bjork, che mi piace molto perché è una tipa che sperimenta sempre, ma prende molto dal passato, ma è futurista, non futurista. È passatista, quello voglio dire, no? Il passatismo è sulla via, è sul passatismo, sul pensare si stava meglio quando si stava peggio, non ci sono più i Beatles, non ci sono più i cantautori, sto leggendo delle cose su non ci sono più i cantautori e non ci sono più i tempi, magari sono cambiati, ma finché ci sarà uomo, donna, poesia, ci sarà anche la canzone d'autore. Non ha senso. C'è sempre qualcuno che dice non ci sono più i cantautori di una volta, no? È normale. È normale, certo. Ci sono i cantautori di adesso, dei nostri tempi. Non ci sono neanche più i politici di una volta. Peggio. Adesso entriamo in un altro campo a noi non compete. E allora, una curiosità, Maria. Hai una copertina bellissima al disco. L'autore è qui presente, alla mia sinistra, Stefano Ortes. Stefano, allora parlaci tu di questa copertina, di come ti è nata l'ispirazione. Beh, io insomma, oltre che occuparmi di musica, faccio anche dei quadri, quindi ricalca un po' il mio stile astratto, nel quale ho voluto inserire questa figura un po' troppo morfa di appunto Maria, che alza una mano al cielo, che un braccio al cielo si intravede, magari non è molto chiaro, e in un'altra direzione c'è l'altro braccio che indica il sole. Quindi diamo delle indicazioni anche per gli amici, per andarsi a vedere la copertina. Noi prossimamente pubblicheremo anche alcune foto che sono state scattate all'interno dei nostri studi, e metteremo anche a disposizione proprio la copertina del disco, in maniera che ci sia un'immagine che possa far collegare alle sonorità che ci ha regalato Maria De Vigili in questa serata, ma anche per poter entrare in possesso del disco. Diteci come. Su Facebook, Mari, sì. Direi che è la cosa più immediata. Ma allora, no? Chi vuole solo la versione digitale è distribuita da Audioglobe su iTunes, Amazon, eccetera, eccetera. Fisicamente noi lo possiamo solo inviare e ci possono contattare da Facebook, appunto, da Facebook o via attraverso mail. Il sito che hai da poco nuovo. Sì, ho un sito, posso dirlo finalmente, www.mariadevigili.it. Benissimo. E da lì ci sono i riferimenti, anche contatti, eccetera. Abbiamo parlato di foto, dobbiamo sottolineare che la maggior parte delle foto sono state fatte dal nostro curatore, che è Alberto Pisco, che salutiamo. Sì, sì, sì. Salutiamo, grande Alberto, è merito di Alberto se siamo riusciti ad avervi in studio in questa serata. E ricordiamo che poi dalle 22:30 circa fino alle 24 Alberto Prisco ci regalerà dell'ottima musica rock e ci fornirà anche la classifica di tutti i bei pezzi rock che stanno andando in questo momento. Allora, ancora una canzone in acustica, questa volta si parla di fortuna. Sì, la mia fortuna. Bene, ce l'ascoltiamo allora. Okay. E quando un pallido foglio di carta mi guarderà ridendo da un comodino, solo uno spicchio di luna mi ricorderà la mia fortuna. Suggerisco anche agli ascoltatori un'altra bella abbinata: oltre a prendervi il CD di Maria Di Vigili con motori e introspezioni, anzi scusa, ho letto De Vigili, dovevo dire De Vigili questa volta. È lo stesso, dai. Vabbè. Di solito dicono De Vigli, quindi sono già fortunata. È per quello che hanno inventato il codice fiscale. Per non prendere, sì, comunque il prossimo dire nome d'arte De Vigili me l'ero studiato per circa una settimana, però può sempre succedere. In compenso puoi chiamarmi Bilato, se vuoi, che è il mio cognome. Ok. Allora, abbiamo ascoltato La mia fortuna, fortuna e sventura che vanno di pari passo, quindi ricordi che si susseguono in quella che potrebbe essere una notte insonne e una notte che ti fa scrivere canzoni. Sì, sì, sì, questa canzone è una forse delle meno recenti dell'album, è del 2009 se non erro, 2009-2010, l'ho scritta in un attimo di sconforto non di notte in realtà, forse di giorno, e volevo lasciar perdere la vita da musicista. E allora ho scritto una canzone un po' chiamando la musa, così, non so come dire, la musica. E in realtà mi sono resa conto che è una fortuna l'arte, vivere di arte, però è anche una sfortuna non poter fare a meno di suonare o di comporre, di fare musica. È un po' una sfortuna perché, insomma, un po' pesante alle volte, ecco. In quel momento poi era anche più pesante. Bene, allora, sempre per parlare di questo disco, il tempo stringe, ma ancora lo spazio ce l'abbiamo. Diciamo, sono 12 tracce quelle di Motori e Introspezioni, e tra queste 12 tracce c'è anche una cover di un artista che sinora non abbiamo mai citato, ma che ora citeremo, Franco Battiato. Era sottointeso, perché in realtà è un altro grande che... insomma, spero mi abbia un po' influenzato, sì. Ho ascoltato molto. Tu hai preso una canzone, si intitola Aria di Rivoluzione, un album che è uscito nel 1973, ancora col Battiato, molto progressive e sperimentale, e si chiamavano Le Corde di Aries, mi sembra. Sulle Corde di Aries, giustamente. In realtà questa canzone non è tra le mie preferite di Battiato. Io adoro L'Animale, cose molto più popolari, tra l'altro. E Il Silenzio, Un Oceano di Silenzio, eccetera. In realtà, poco prima di entrare in studio, sarà stato maggio, ho visto per caso su Facebook due persone di un gruppo che facevano a cappella questo brano, e sono entrata, mi piaceva molto il testo, mi ha rimandato alla cover di CSI, fatti con Canali, che cantavano, c'era Lindo, c'era anche Canale. E poi cantavano bene loro, cantavano molto, molto dark, assolutamente dark. Sì, e poi sono andata a rivedermi le due versioni. Sai che ci sono, c'è anche Il Legittimo Brigantaggio che ha fatto la cover. Questa l'ho vista dopo, molto simile, musicalmente ricca. Ci sono due versioni di Battiato, quella del 73 e quella del, non vorrei sbagliare l'anno, 89. Ho sparato un po', che è fatta un po' diversa, più pacata. Insomma, era più un po' ingenuo quasi quando la cantava. Mi piaceva di più quella iniziale, e mi piaceva molto soprattutto per il verso «La mia generazione vuole nuovi valori». È storicizzabile quel brano, però è anche attuale, visti anche cosa sta succedendo in Medio Oriente, e soprattutto perché penso che la crisi economica sia legata con la crisi valoriale, etica. Benissimo, comunque questa canzone, Aria di Rivoluzione, qui non l'ascolteremo. Perché? Perché non è in scaletta, non l'ho messa. Non è in scaletta, ma anche perché vogliamo rendere ancora curiosità agli ascoltatori, naturalmente. Certo. Se volete, c'è internet, mille maniere per entrare in possesso del disco, di questo bel preparato di Maria De Vigili, che insieme a Stefano Orzes ci ha fatto compagnia in questa serata. Maurizio, una domanda. Tu lo sapevi che Maria canta anche in francese? No, non lo sapevo, ma l'ho scoperto sentendo il disco. Benissimo, e allora ci ascoltiamo un pezzo, non di questo disco, non da Motori e Introspezioni, di un disco precedente di Maria De Vigili, che si intitola La Semplicità, e quindi ci godiamo questa parentesi tutta française. Les étoiles qui dansent, et je les étoiles qui dansent avec moi. J'aime voir les étoiles qui dansent avec moi. Je voudrais aller exactement où j'aimais tout. Ascoltati un qualcosa che riguardava qualche tempo fa, sempre di Maria De Vigili. La Semplicità si intitolava questo disco, che conteneva sei tracce, appunto La Semplicità il titolo del disco, e poi ancora questa canzone cantata in francese, una lingua che piace molto a Maria, a quanto pare, visto che poi riprendi anche una canzone. E sto parlando con Maria perché è qui davanti a me, quindi stiamo sì. parlando in diretta con lei. Un'altra canzone dall'album Motori Introspezioni è l'Albatros di Charles Baudelaire, con questa bella poesia che tu hai reso in musica, una poesia assolutamente triste perché parla di esperimenti strani fatti dai marinai per passare il tempo con gli albatros che ci passavano vicino, però è una canzone che tu hai rimesso in esperimento, si può dire. Sì, è una... ecco, questa è la canzone forse più vecchia tra virgolette, perché l'avevo già musicata nel 2005 forse, e riarrangiata per il disco, più rock. Sì, Baudelaire è penso il mio poeta preferito. Adesso non vorrei fare una classifica, però è stato come ascoltavo i dischi di Nirvana, o io ascoltavo e leggevo, mi sono letta tutto Baudelaire, anche la prosa. Perché è stato un poeta non decadente. Lui scriveva in versi alessandrini, era molto difficile, era ancora metricamente classico. Maurizio, prendi nota, eh? No, sì, sto prendendo nota, sto prendendo tu. Mi ha sempre colpito questa cosa. Lui voleva dare comunque ancora lo scettro alla poesia. E è il primo dei decadenti, perché si rende conto. Potrebbe essere tipo una specie di André dell'850. Anche un po' punk, si dipingeva i capelli di verde, mi hanno detto un prof di letteratura, ha detto una volta che era il primo punk, si è fatto i capelli verdi per stupire forse. Perfetto, un Billy Idol dei tempi. Sì, è da confermare questa cosa, ma certo, mi ricordo che in una lezione disse così. Benissimo, allora abbiamo spaziato tra la musica, la letteratura, la filosofia e quindi ringraziamo Maria De Vigili per averci portato un po' di cultura oltre che di musica all'interno della nostra programmazione serale. Noi ringraziamo anche il produttore, il coproduttore del disco, Stefano Orzes, che in questa serata è arrivato con le percussioni e poi verso il finale ci ha detto di essere anche un pittore. Hai anche qualche sito di riferimento dove possiamo vedere qualche tua opera, Stefano? Ma direi che da Facebook, poi c'è un sito, ma non è aggiornato, anche perché è da un po' che non faccio più lavori, però da Facebook si possono vedere delle immagini. Benissimo, allora il tempo stringe, dopo di noi c'è Alberto Prisco che si sta mettendo in sella e mi sta dando un crogno per dire è tempo che te ne vai. Allora grazie per essere stata con noi, Maria. Grazie mille per l'ospitalità. Allora un ultimo pezzo, sempre in francese, sempre dal tuo Motori Introspezioni, per salutarci. Allora vi lasciamo il microfono aperto, noi come sempre ce ne andiamo prima, da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara il solito grande caloroso ciao, buona musica a tutti, grazie ancora a Maria De Vigili e grazie ancora a Stefano Orzes per essere stati con noi. Grazie. Ricordatevi, grazie. Motori e introspezioni. Je ne sais pas, je ne sais pas que ce sera. Je vis comme une étrangère. Je suis ici pour chercher Dieu. Je ne sais pas, je suis seulement un être vivant, un être vivant.